4 mattino. L'assessore sa quello che dice? Io ho più di 65 anni, faccio andare uno studio di fisioterapia e sto a casa? Per fortuna sto in Piemonte, che non sta benissimo, ma comunque non è la zona rossa. Quando quel signore lì avrà 65 anni e lavorerà ancora, si renderà conto che non siamo proprio rimbambiti per ora. Caro Simone, ma invece di dire agli over 65 di stare a casa, non sarebbe meglio fare ripartire la campagna di vaccinazione contro l'influenza e contro la polmonite, cosa che io ho fatto col medico di base, in modo da salvaguardarli? Vorrei sapere se all'interno di questi purtroppo 32 decessi che abbiamo avuto in Italia ci sono soggetti che erano assolutamente sani e che sono appunto deceduti a causa del famigerato coronavirus, perché altrimenti no, sembra che il coronavirus abbia fatto 32 morti, ma correggetemi se sbaglio, non è proprio così. Le 7 e 18 minuti, la seconda parte di 24 mattino di questo martedì 3 marzo, la parte dedicata alla rassegna stampa, e no, non c'è nulla da correggere, perché quello che abbiamo detto fin dall'inizio e stiamo continuando a dire, che da quel che sappiamo almeno, la gran parte delle persone che vengono contate come morti da coronavirus in realtà sono morti con il coronavirus, ossia erano anziani o persone in situazioni sanitarie già precarie, in situazioni di difficoltà. La polmonite derivante dal coronavirus, da Covid-19, ha peggiorato la situazione, li ha portati purtroppo alla morte. Sulla questione della vaccinazione, polmonite, influenza, non serve a niente contro il coronavirus, contro Covid-19. Detto ciò, è sempre meglio farla naturalmente, lo diciamo, c'è una campagna ogni anno, ovvio. E in merito al non uscire di casa per gli ultra 65 anni, non so che dire alla signora, di certo è una cosa che l'assessore Gallera dice non dà come ordine, però dice per tutelarvi meglio converrebbe che rimaneste a casa e limitaste i contatti sociali. Poi, insomma, fortunatamente non c'è il coprifuoco e quindi ognuno è più o meno libero di fare quello che preferisce, però è chiaro che evidentemente dei rischi ci sono, eh. Allora, con le vostre voci sempre, sono benvenute al 349-238-6666 via WhatsApp audio. Siamo in diretta su Facebook, siamo su Instagram, su Twitter, come sempre, cari, eh? Ci siamo. E siamo alla parte, come si diceva, dedicata alla rassegna stampa, come sempre a quest'ora, con, come sempre, un quadro generale, innanzitutto delle prime pagine dei quotidiani. Con la stampa che apre con la paura per due nuovi focolai, picchi a Bergamo e Cremona. Il Corriere della Sera che parla di nuovi aiuti a lavoro e imprese. La Repubblica della prima frenata dei contagi. Il Messaggero che si concentra su Roma, il giorno dei contagi, con i 10 casi accertati. Il Giornale proprio sul piano salva anziani, pasti a domicilio e visite, come sopravvivere all'isolamento. La Verità titola "Dobbiamo salvarci da soli". Il Fatto Quotidiano parla di Lombardia e Lazio con sanità colabrodo. Il Sole 24 Ore di incubo default, ossia fallimento per il 10% delle imprese. Ma come sempre a centro pagina la fotonotizia è dedicata all'Italia che va, all'Italia che si muove, con un'azienda di Vimercate che ha rilevato la divisione solar del colosso ABB, diventando uno dei leader mondiali della produzione di inverter per energie rinnovabili. E poi altri giornali come Avvenire e Il Manifesto si dedicano invece a quello che succede al confine tra Grecia e Turchia e a Lesbo. Il Manifesto titola "L'isola dell'inferno". Avvenire: un altro virus letale e caccia ai profughi. la Gazzetta dello Sport decide di aprire su Boban e lo scontro con il Milan e di tenere, insomma, sempre in prima pagina, ma un po', insomma, meno evidente, tutta la diatriba sul campionato, su quando si giocano le partite. Juve-Inter il 9, Zhang che dice: Dalpino è un clown. E iniziamo come sempre, poi arriveremo alle cronache dal coronavirus, tra l'altro con una cosa che mi ha incuriosito. Inizieremo da una cosa piccola che mi ha incuriosito e che è la storia della registrazione del marchio coronavirus. Ci arriviamo tra un attimo, perché poi, insomma, l'inventiva italiana passa anche da questo. Però iniziamo come sempre da qualche storia laterale e iniziamo con due questioni che hanno a che fare con la nostra giustizia, partendo da Libero, pagina 16. È una storia che inizia nel 1994 e non si è ancora conclusa. In galera al posto del fratello solo per cattiva condotta. Lo racconta Simona Pletto, appunto, a pagina 16 di Libero. Lo hanno tenuto in carcere 1 anno e 5 mesi con l'accusa di spaccio di droga, eppure era innocente. Lo avevano scambiato per il fratello Marziano, un ex della mafia del Brenta. Un errore giudiziario, quello di cui è stato vittima Giuliano De Cecchi, oggi 56enne, residente nella provincia di Venezia, riconosciuto solo 21 anni dopo dal Tribunale di Venezia, che lo ha assolto. Ci sono voluti 21 anni per capire che era lui e non era il fratello. Pensate che storia incredibile. E ora anche dalla Cassazione, che ha ordinato allo Stato di risarcirgli il danno. Tutto ha avuto inizio il 13 aprile del 94, il giorno nel quale sono scattate le manette ai polsi di Giuliano. L'uomo, all'epoca 34enne, sposato, è stato accusato di aver ceduto droga da alcuni tossicodipendenti che frequentavano la riviera del Brenta. Gli investigatori lo avevano per l'appunto scambiato per il fratello, certo non un tipo tranquillo, visto che qualche anno dopo sarebbe finito all'ergastolo per aver torturato e ucciso un membro della sua banda che non voleva più sottostare alle sue regole. Una volta prosciolto da tutte le accuse, Giuliano De Cecchi si era rivolto alla Corte d'Appello di Venezia per chiedere il riconoscimento di un ristoro per la durata del processo e per quei 516 giorni trascorsi dietro le sbarre da innocente. I giudici gli hanno riconosciuto però solo 9.000 euro per il giudizio, ma nulla invece per la detenzione. Secondo l'avvocatura dello Stato, l'uomo, col suo comportamento considerato non irreprensibile, aveva indotto inquirenti e magistrati nell'errore. E quindi solo 9.000 euro di risarcimento per il giudizio e non per l'ingiusta detenzione. Sta facendo discutere invece nella vicenda di Vittorio Cecchi Gori. Insomma, la condanna, lo sapete, è una condanna per bancarotta, 8 anni e 5 mesi, solamente che l'uomo ha 78 anni, è malato, ha passato un'ischemia e insomma ci si interroga se quest'uomo debba andare in carcere oppure no. Interviene Davide Faraone di Italia Viva a pagina 14 del giornale, intervistato da Luca Fazzo. Una situazione disumana, dice, la prova che in Italia la giustizia non funziona, dice Davide Faraone. Il problema è che Cecchi Gori ha 78 anni, è reduce da un'ischemia e portarlo in carcere rischia di avere effetti devastanti per la sua salute. Come sono le carceri italiane lo sappiamo, dice Faraone, ma anche se Rebibbia fosse un hotel a 5 stelle, io un uomo di 80 anni non lo vedo in cella, ma a scontare la pena a casa sua. Il problema, dice Faraone, non è che siccome ha prodotto capolavori come Il Postino, allora Cecchi Gori deve essere considerato al di sopra della legge. Ci sono stati dei processi, hanno accertato dei reati, è giusto che ne paghi le conseguenze, ma la giustizia dovrebbe considerare chi è oggi Cecchi Gori. Un anziano bisognoso di cure che deve scontare la sua pena, e la pena dovrebbe essere proporzionata alla sua condizione di età e di malattia. Dunque, dibattito aperto. E a proposito di giustizia, e non solo di giustizia, di violenza, di legge, ci sono ancora le pagine dei quotidiani piuttosto cariche della cronaca di quello che è successo a Napoli e della vicenda del quindicenne, del sedicenne, insomma, ucciso da un carabiniere. Aveva tentato di rapinarlo, come ormai sapete, aveva tentato di sottrargli un Rolex. Il Messaggero, innanzitutto, a pagina 14 con Leandro Del Gaudio, ci racconta un po' dell'interrogatorio del 17enne che era con lui e quello che doveva mettere a segno la rapina con lui. Cosa ha raccontato il complice di Ugo Russo? Come ha giustificato quel tentativo di rapinare quel ragazzo di poco più grande di lui, 23 anni, ha il carabiniere, tra l'altro, insomma, immaginate, adesso indagato per omicidio volontario, dicono i magistrati che serve questo per poter condurre al meglio l'inchiesta, però immaginate un ragazzo di 23 anni... che si trova ad aver tolto la vita ad un sedicenne, per quanto in quella situazione, insomma, una situazione complessa anche per lui, dolorosa anche per lui. Dice il 17enne: quella notte avevamo bisogno di soldi per andare a ballare, volevamo andare in discoteca, ci serviva denaro, abbiamo notato una macchina bella, l'abbiamo seguita, poi il mio complice è sceso dallo scooter che guidavo e si è avvicinato al militare. Molti si sono interrogati in queste ore, dopo la morte di Ugo, dopo l'uccisione di Ugo, sul padre. Ve l'abbiamo fatta sentire la voce ieri, il padre che diceva è stata un'ingiustizia, e qua insomma c'è stata anche una sorta di sollevazione su internet contro queste frasi. Il Giornale ci informa a pagina 18 sempre con Luca Fazzo che e il padre ha dei precedenti, e dei precedenti per rapine dello stesso tipo. Il documento porta la data del 28 giugno 2018 e costringe a leggere diversamente la tragica storia di Ugo Russo, perché il documento riguarda il padre di Ugo, Vincenzo, 38 anni, l'uomo che in questi giorni ha raccontato davanti alle telecamere il suo strazio, ma che la procura di Milano accusa di essere un professionista dello stesso tipo di rapine costate la vita a suo figlio. Non ha dovuto guardare lontano il povero Ugo per cercare l'esempio sbagliato da imitare. L'impresa che la procura di Milano attribuisce a Vincenzo Russo è la fotocopia di quella che sabato suo figlio realizza a Napoli. 24 settembre 2013, via Ripamonti, Milano, l'auto di un avvocato viene accostata da uno scooter che gli urta lo specchietto, il guidatore si ferma e accusa l'avvocato di avergli fatto male alla mano. Appena l'avvocato abbassa il finestrino arriva un altro scooter, il passeggero lo colpisce al volto e gli strappa un orologio da 40.000 euro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dall'altra parte di Milano, viene messa a segno un'altra rapina identica, la volante si mette alla caccia degli autori, intercetta due scooter, li insegue, uno dei motocicli si schianta, a bordo c'è appunto Vincenzo Russo, il padre di Ugo, che adesso attende la sentenza d'appello, ma ha altre angosce, conclude Fazzo, con le quali fare i conti. E su questo tema torna Libero in prima pagina con un commento firmato da Filippo Facci, appunto in prima parte al carabiniere inquisito. Dice, insomma, il tema è un po' questo: finché Napoli piange i rapinatori non può risorgere, scrive Filippo Facci. L'argomento è il malvivente napoletano di 15 anni che ha cercato di rapinare un carabiniere che poi per difendersi gli ha sparato, ammazzandolo. Dopodiché è successo che alcuni parenti e gentaglia varie hanno devastato il pronto soccorso. I devastatori, gli incivili, sapete che cosa chiedono? Giustizia. Non hanno capito una cosa: giustizia è già stata fatta, e giustizia non è ammazzare a bruciapelo chiunque tenti uno scippo. Giustizia è sapere, essere educati a sapere che se vai in giro a fare rapine può finire così. Prima o poi finirà così, e il fatto che uno abbia 15 anni non è un motivo per cui non lo sappia, è un motivo, soprattutto a Napoli, per cui lo sappia 3, 10, 1000 volte e lo impari come imparavano i bambini che nella scuola di una volta riscrivevano sempre la stessa frase alla lavagna. Così Filippo Facci su Libero. Alleggeriamo un po', ma nemmeno troppo, e veniamo sulle mitiche vicende italiane, le mitiche vicende di Roma. Andiamo a pescare dalla cronaca di Roma del Messaggero a pagina 35. Sapete come funziona con le gare in Italia, e con i lavori pubblici. Ebbene, caditoie, che sono i tombini, 5 anni dopo si aprono le buste, fondi fermi dal Giubileo. Il pezzo lo firma Stefania Piras, per fortuna non è il Giubileo del 2000 ma è l'ultimo, quello del 2015. Venerdì qualcosa forse si muoverà per assegnare i fondi straordinari stanziati per il Giubileo della Misericordia, si è svolto nel 2015, e dedicati alla manutenzione ordinaria delle caditoie dei municipi. Cari romani, se vedete che quando c'è una pioggia i tombini si riempono, esonda tutto. Adesso sapete perché? Perché la gara, racconta Stefania Piras, è ferma da 5 anni. La Porta Santa si è aperta l'8 dicembre 2015, si è chiusa il 20 novembre 2016. I fondi per i lavori sono sempre stati disponibili, ma vanno incanalati in un regolare appalto. E dunque il primo appalto è stato sbagliato. L'ANAC gli ha detto di rifarlo. Gira che ti rigira. Forse venerdì, dopo 5 anni, si aprono le buste. Pa. 24 mattino. Buongiorno a tutti, volevo dire che mi sembra piuttosto ridicolo questo mantra che viene ripetuto ormai da qualche giorno per tranquillizzare la gente che non si muore di coronavirus ma con il coronavirus, perché mi pare che sia come dire che non si muore di incidente stradale ma delle conseguenze dell'incidente stradale. Non è colpa dell'auto che ti ha travolto, ma del fatto che poi tu hai battuto la testa contro l'asfalto. È colpa dell'asfalto se tu sei morto. No, no, non è esattamente così. Metafora non azzeccata, amico mio. No, no, no, dire proprio di no. La polmonite aggrava una condizione preesistente, ok? Quindi, per esempio, se la persona di una certa età e in una condizione fisica grave non ha fatto il vaccino per l'influenza e si prende l'influenza e ci sono le complicanze dell'influenza, il risultato può essere lo stesso. Ok. Allora, veniamo proprio alle cronache dal coronavirus e fatemi iniziare anche qua con una nota un po' più leggera. C'è la Porta Libero a pagina 9, la registrazione del marchio coronavirus in Italia. Allora, se nei momenti di difficoltà a volte il toro va preso per le corna, scrive Libero, con il rischio epidemia galleggia sull'Italia e per l'Europa, c'è chi ha scelto di prendere il virus per le corna. Tra chi nel mondo del business non bisogna mai disperare, anche da una crisi possono nascere opportunità, devono averlo pensato le aziende che in questi giorni sono corse a registrare il marchio coronavirus. Tra queste c'è anche un gruppo italiano che, ironia della sorte, è specializzato nello sviluppo di ristoranti orientali, un settore che a causa dell'allarme sanitario ha visto un drastico calo dei clienti nelle ultime settimane. Ma l'iniziativa in questo caso è mossa da un intento solidale. Allora, va dato atto che la notizia l'ha beccata la DN Kronos, l'agenzia di stampa DN Kronos, la quale ha pescato che il 28 febbraio G Group Italia SRL ha depositato la dicitura coronavirus per una serie di prodotti tra cui suonerie, grafiche, emoticon, applicazioni per cellulari, prodotti metalli preziosi, oggetti ornamentali e poi opuscoli, cataloghi, libri, calzature, maglieria, calze, giochi, maschere di carnevale, insomma praticamente di tutto, anche bastoncini di tofu e di pesce che evidentemente verranno fatti a forma di coronavirus. G Group Italia è proprietaria del marchio Sushiko e del marchio Mani, con circa 60 ristoranti nel nord Italia. Il proprietario è il signor Christian Lin, 36 anni, nato in Italia, che desidera contribuire alla lotta contro il coronavirus. E cosa farà? Il ricavato lo manderà all'Istituto Lazzaro Spallanzani e in parte al Ministero della Salute. Dunque, complimenti a Christian Lin. Venendo alle cose più serie che hanno a che fare con la questione, partirei da quelle economiche, se mi consentite, oggi, e dall'apertura del Sole 24 Ore, che è dedicata ai rischi fallimenti per le aziende. Il pezzo di Luca Orlando a pagina 5 e ci dà un po' il calcolo, secondo quanto è stato realizzato da Cerved Rating Agency, che stima un raddoppio delle difficoltà nell'ipotesi, ancora ritenuta improbabile, di una crisi non risolta in 6 mesi. Quindi un'impresa su 10 rischia il fallimento, questo per dare la misura. Ovviamente nel caso di scenario più difficile e soprattutto con una differenza tra settore e settore. Un più che raddoppio rispetto ai livelli attuali, stima l'agenzia di rating Cerved, che sulla base della distribuzione dei giudizi espressi su 25.000 aziende simula l'impatto del coronavirus in ciascun settore. Probabilità media di fallimento che appunto salirebbe in caso di una crisi risolta in 3-6 mesi. Lo scenario soft darebbe benefici ad alcuni specifici comparti, riducendo le probabilità di fallimento per farmaceutica, ovviamente, sia la produzione che la distribuzione, e servizi di comunicazione e informazione. Se viaggi meno devi comunicare a distanza di più, danneggiando invece tutti gli altri comparti. Così Luca Orlando a pagina 5 del Sole 24 Ore. Il tema dell'impatto economico del coronavirus ritorna anche ampiamente nell'intervista che La Stampa a pagina 7 realizza con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che oggi riunirà tutto il mondo che fa riferimento al Made in Italy, una riunione straordinaria sull'export al Ministero degli Affari Esteri. Del resto, appunto, si ricorda che l'export, insomma, vale più o meno il 32% del PIL per noi, e quindi è importante farlo ripartire. Si metteranno, dice Di Maio, più di 600 milioni di euro a sostegno delle imprese. Soprattutto Di Maio torna a scagliarsi un po' con chi ha diffuso quelle che definisce fake news e fatto sì che una serie di paesi chiudessero i voli all'Italia. Le questioni economiche le troviamo e le recuperiamo sempre sul Sole 24 Ore, relative anche ad altro, ai dati che sono stati diffusi ieri sulla finanza pubblica. Abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, lo sapete, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, il quale ci aveva detto: guardate che i dati che arriveranno sulla finanza pubblica nei prossimi giorni saranno buoni. E in effetti sono buoni. I dati che sono stati diffusi ieri ci indicano, lo scrive Davide Colomba a pagina 8, un boom di entrate che ferma il deficit all'1,6% e un PIL che cresce dello 0,3% per il 2019. Quindi si entra, per così dire, nel 2020 in una condizione di finanza pubblica buona e con un'idea a questo punto che la Commissione europea ci possa dare dei margini di lavoro per intervenire sul tema del coronavirus, tema del quale torneremo a parlare oggi alle 8.35 con il presidente di Confindustria Boccia. Segnalo anche a pagina 7 del Sole 24 Ore un'intervista al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, che parla di un ecobonus al 100%, il rilancio di Impresa 4.0 su 3 anni, nuovi incentivi per l'auto, più in generale con un'idea di un pacchetto economico che insomma si rafforza. In tutto ciò c'è il delirio calcistico, ragazzi, un vero delirio, ne parlavamo già prima. Insomma, non tanto perché insomma, si può decidere se giocare a porte chiuse, giocare a porte aperte, giocare un giorno, giocare l'altro, oggettivamente è poco importante a fronte di quello che stiamo vivendo in questa fase. Di certo però la confusione che si è generata in queste ore dà l'idea di un meccanismo decisionale che funziona poco. Ne parla la Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista a Malagò sul quotidiano La Repubblica, ma prima il traffico. "24 Mattino". E allora, delirio completo nel mondo del calcio, pagina 6 della Gazzetta dello Sport, accordo con insulti, Juventus-Inter si gioca lunedì e il presidente dell'Inter Zhang che attacca il presidente della Lega Dalpino e gli dà del clown perché non erano d'accordo, quindi non si è capito, prima si doveva giocare appunto a porte chiuse, poi a porte aperte, poi un giorno, poi in maggio, poi alla fine si gioca il 9 marzo, in tutto ciò notavo, prendendo la Gazzetta dello Sport e sfogliandola più avanti fino a pagina 25, nello scoprire che stasera la Serie B gioca tutta con una sola partita a porte chiuse, perché Cremonese Empoli e si gioca a Cremona, per apprendere anche che invece la Lega Pro va verso il terzo rinvio della ex Serie C. Come capite, si sta muovendo tutto in ordine sparso e senza il minimo coordinamento. Tanto che oggi il presidente del CONI Malagò, a pagina 9 sul quotidiano La Repubblica, insomma, viene intervistato e dice: il calcio litiga e non pensa alla salute, è un disonore per l'Italia. Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l'unico modo per garantire al 100% la regolarità del campionato, dice Malagò. La prossima settimana la Juventus non avrà la Champions League, l'Inter avrà a disposizione 3 giorni per recuperare le energie prima dell'Europa League. Invece per due giorni gli chiede Maurizio Crosetti, Repubblica, che lo intervista: i dirigenti del calcio hanno saputo solo litigare, non fa onore all'Italia, il virus sta creando problemi enormi a tutto lo sport, è tempo che il calcio capisca che non esistono atleti di serie A e atleti di serie B, essere più popolari e guadagnare di più non dà ai calciatori più diritti rispetto a chi si è magari allenato molto più di loro per ottenere un passo olimpico. È una questione di rispetto. E qua il riferimento, nemmeno troppo velato, è al fatto che le Olimpiadi di quest'anno, quelle in Giappone, sono a rischio, insomma. E quindi, a fronte di tutto questo, sembra dire Malagò, anche se non lo dice esplicitamente, insomma, tutta questa sceneggiata fa un po' ridere. La situazione al confine turco-greco, altra questione che troviamo ampiamente un po' su tutti i quotidiani, con diverse interpretazioni. Le cronache migliori mi pare che siano quelle di Francesca Paci sul quotidiano La Stampa e quella di Nello Scavo a pagina 4 di Avvenire. Lo sanno tutti, scrive Scavo, che questo è il momento buono perché il fiume corre basso e i gendarmi turchi guardano dall'altra parte. Il ricatto umanitario di Ankara all'Europa è solo all'inizio, con 120.000 profughi spinti tra Grecia e Bulgaria negli ultimi giorni. Due sono morti ieri mattina. Un bimbo siriano nel naufragio di un gommone che tentava di sbarcare a Lesbo, un ragazzo di Aleppo, mentre la polizia greca sparava proiettili di gomma contro la calca sul confine terrestre. Arrampicato sul ramo più alto, nella campagna tra la Turca e Dirne, la regione greca dell'antica Tracia, la vedetta afghana sa che dipende tutto da un suo segnale. Non si va più in solitaria. La coalizione dei respinti si è data una strategia. Per una volta i contrasti etnici, le scazzottate negli accampamenti tra pakistani e indiani, le gelosie tra afghani e iraniani, la diffidenza dei somali, la malinconia dei siriani lasciano il posto ad un'alleanza inedita. A migliaia, dietro alle siepi, in centinaia appostati sulla riva turca dell'Evros, si sono dispiegati lungo chilometri e chilometri di frontiera. Impossibile per le guardie greche riuscire a sigillare il confine. Di tempo, in realtà, non ne rimane molto. Così inizia un bellissimo pezzo di Nello Scavo, appunto, dal confine, che ci dà un po' un quadro della situazione. E poi ci sono le letture, le interpretazioni di tutto questo, in quello che lo stesso Scavo, lo avete sentito nel pezzo, definisce il ricatto di Ankara, ossia il fatto che la Turchia dica all'Europa, insomma, siete stati zitti su quello che sta succedendo in Siria, e c'è chi pensa appunto che voglia di nuovo battere cassa Erdogan, chiedere soldi all'Europa per trattenere i profughi siriani sul suo territorio. E qua si scontrano, se vogliamo, due letture opposte, due interpretazioni opposte, perché se una è quella che abbiamo visto nel pezzo di Nello Scavo e che ritroviamo per esempio nella cronaca di Benedetta Argentieri a pagina 16 del Fatto Quotidiano, che già nel titolo parla di un nuovo ricatto del sultano, una crisi umanitaria come nel 2015, così come tutto questo sembra emergere dall'intervista che viene realizzata con l'ex ambasciatore greco Mavroidis, il quale dice: una provocazione della Turchia per avere più soldi da Bruxelles. Questa è la lettura che troviamo sul Fatto Quotidiano. Il Foglio ne dà un'altra di lettura con Daniele Raineri, il quale dice, insomma, quasi a premettere che un po' ci si vergogna a parlare bene di Erdogan. Qui al Foglio ci piacerebbe che la Turchia avesse un governo laico, che rispettasse la libertà di giornalisti e accademici e che riuscisse a trattenere le pulsioni aggressive contro i turchi. Ma in questo articolo di oggi non si parla di quei dossier dolorosi e ci si concentra sull'equivoco enorme che molti fanno a proposito della questione dei profughi siriani e dei confini dell'Europa. Vediamo titoli come il ricatto di Erdogan, Erdogan spinge i profughi verso l'Europa. Ebbene, il fatto è semplice, scrive Raineri. Erdogan ha ragione. I profughi che scappano a milioni verso l'Europa non sono turchi, sono siriani e vengono dalla Siria in guerra. E non sono in fuga da Erdogan, sono in fuga da una campagna militare del governo di Bashar al-Assad e della Russia. Se gli aerei di Assad e della Russia non li bombardassero tutti i giorni, non si sposterebbero di un metro dalle loro case in Siria. Dunque, come vedete, due letture diverse di quello che sta succedendo in Siria. Per chiudere, Beh, insomma, le solite vicende italiane, le questioni che hanno a che fare con le infrastrutture. Trovate molto spazio sui giornali a tutto questo, innanzitutto pagina 15 del Sole 24 Ore, il nuovo allarme sui viadotti, il crollo che c'è stato nel Selenese, lo racconta Maurizio Caprino, e poi il nuovo stop sulla A6, lo avete sentito anche in GR24. Caprino dice però ci sono altre tre strutture in condizioni analoghe tra Liguria, Abruzzo e Molise. Intanto nel Senese è crollato un viadotto sulla via Cassia, chiuso dal 2014, a ricordare i problemi ancora lasciati aperti dal fallimento del cosiddetto federalismo stradale di 20 anni fa, e poi appunto la chiusura temporanea della A6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci racconta Marco Morino nel pezzo accanto, ha messo a disposizione fondi per 1 miliardo. Poi però, ovviamente ragazzi, come sempre in questi casi, i soldi vanno spesi e bisogna vedere se il Paese è in grado di spenderli. Intanto ci racconta invece la Repubblica, che viene in possesso di una lettera sempre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha a che fare con le gallerie. Beh, qua... l'allarme o comunque il tema, ne abbiamo parlato molto nelle settimane scorse. Qual è il punto? C'è una normativa europea, la quale normativa europea prevede che le gallerie debbano sottostare a certi standard di sicurezza, soprattutto le gallerie sopra i 500 metri di lunghezza. Ebbene, succede che in Italia ci sono un centinaio di gallerie che questi standard di sicurezza non li rispettano. Attenzione, lo dico per non mettervi paura, non è che necessariamente sono a rischio crollo, no? O ci sono rischi immediati, e però non rispettano alcuni standard. Tra questi, per esempio, alcune sono prive di colonnine degli SOS, di alcune vie di fuga, non è sufficiente l'illuminazione, non c'è la camera di tenuta stagna in caso di incendio, non c'è un tecnico responsabile, non ci sono sistemi di videosorveglianza attivi H24, insomma uno di questi elementi. Fatto sta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci racconta il quotidiano La Repubblica, ha dato un ultimatum ad Autostrade: dovete mettere in regola 50 gallerie, 50, o saranno chiuse a fine aprile. La diffida, racconta Giuseppe Filetto appunto a pagina 20 della Repubblica, arriva dal Ministero delle Infrastrutture. Già a novembre c'era stata la prima segnalazione. Vedremo come andranno le cose e se i lavori ci saranno in queste 50 gallerie. Intanto ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo con l'ex ministro degli esteri Franco Frattini, esattamente ministro degli esteri Franco Frattini, si impiccia un po' la lingua, scusate, può succedere. Esattamente della vicenda di quello che avviene al confine turco-greco, e poi con la presidente di Confindustria Boccia sul tema del coronavirus. A tra poco.